24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi la decisione della Germania di rinunciare all'energia nucleare. L'annuncio ieri da parte del ministro dell'ambiente tedesco, che ha definito la decisione irreversibile. E sempre in Germania è in corso la peggiore contaminazione mai registrata nel paese. 11 le vittime del batterio delle verdure Escherichia coli, che ha infettato oltre 300 persone. Ma andremo anche in Italia per le elezioni amministrative che hanno premiato l'opposizione punendo il governo Berlusconi. Il premier dalla Romania ha detto: abbiamo perso, è evidente, ma andiamo avanti. E apriamo questa edizione con la decisione storica della Germania di rinunciare all'energia nucleare. L'annuncio è arrivato nella notte dopo un lungo consiglio dei ministri. È definitivo, ha detto il ministro dell'ambiente Röttgen, gli ultimi tre impianti chiuderanno nel 2022 e non ci saranno revisioni. Chiuse subito le sette centrali più vecchie della Germania, già ferme per la moratoria imposta dopo il disastro di Fukushima, e la centrale di Krümmel con tutti i suoi problemi. Altre sei centrali si fermeranno entro il 2021, mentre le ultime tre, le più nuove, verranno mantenute in attività per motivi di sicurezza energetica per al massimo un anno in più. Fino alla recente moratoria sui vecchi impianti, il 23% dell'energia tedesca veniva dal nucleare. Prima del Consiglio dei Ministri di ieri, la cancelliera Merkel ripeteva che per uscire dal nucleare bisogna provare la possibilità di approvvigionarsi di energia diversamente. Evidentemente c'è riuscita adesso, ben consapevole anche che la batosta inflitta dai Verdi alla sua CDU, ma anche all'SPD nelle regionali di marzo, fu soprattutto una batosta nucleare. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Sono attesi al più tardi domani i risultati degli accertamenti in Spagna nelle due aziende agricole produttrici dei cetrioli sospettati di essere una delle fonti responsabili del batterio killer diffuso in Europa, l'Escherichia coli. In Germania le vittime sono salite a 11, oltre 300 le persone infettate. Ma di cosa si tratta e quali sono le precauzioni da prendere? Stefania Salmaso, direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia e Sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità. L'Escherichia coli è un batterio abbastanza comune, però c'è un tipo che ha un gene che gli permette di produrre una tossina che è molto pericolosa, e l'habitat naturale in genere per questi batteri è l'intestino dei ruminanti, quindi bovini, ovini, ai quali non produce i danni che produce invece nell'uomo. L'uomo si può infettare per l'ingestione di cibi contaminati con il contenuto intestinale dei ruminanti che erano infetti, e quindi dai vegetali ovviamente, se i vegetali sono stati trattati con l'etame che viene dai bovini contaminati, l'esterno dei vegetali può essere contaminato, e quindi un accurato lavaggio della verdura da consumarsi cruda è in genere protettiva e sufficiente. Le norme igieniche sono sempre le stesse: ci si deve lavare le mani, bisogna lavare bene le cose che si consumano crude e cuocere le cose che vanno consumate cotte. Se uno non fa queste tre cose insieme, rischia di prendersi delle infezioni. In Italia oggi è la data ultima per fare iniziare i lavori dell'alta velocità al tunnel della Maddalena e non perdere così i finanziamenti europei. Non arretreremo di un centimetro dalle nostre posizioni, dicono i NOTAV, mentre politici e industriali chiedono di avviare i cantieri della Torino-Lione, anche con la forza se necessario. Cristina Carpinelli ha intervistato Mariella Enoch, presidente di Confindustria Piemonte. Si intende che l'Unione Europea, che ha messo dei finanziamenti per fare quest'opera, li toglie e li dà a un altro paese, probabilmente a un paese dell'Est, ma questi finanziamenti non saranno più dati all'Italia, quindi non si tratta che non vengano dati al Piemonte, al Corridoio 5, non vengono più dati all'Italia per delle grandi opere. Questo è il tema. All'interno del mondo dell'imprenditoria e anche della politica, il fronte è compatto o ci sono delle spaccature? No. E devo dire che il fronte è compatto, ed è compatto bipartisan. È stata firmata in Parlamento una mozione bipartisan da tutti i senatori, dall'IDV a Forza Italia. Se non vogliamo isolare non solo la Valle di Susa, ma il Piemonte e grande parte dell'Italia, ecco, quest'opera va fatta, non è un pallino di qualcuno. Qui stiamo parlando di collegare l'Italia al mondo. E restiamo in Italia per le elezioni amministrative. È successo del centro-sinistra nelle principali città. A Milano Giuliano Pisapia ha ottenuto al ballottaggio oltre il 55% delle preferenze, sconfiggendo il sindaco PDL uscente Letizia Moratti. A Napoli vero e proprio boom per De Magistris. Il candidato dell'Italia dei Valori ha raccolto più del 65% dei voti. Il centro-sinistra strappa al centro-destra Trieste, Cagliari, a sorpresa Novara, oltre a mantenere Grosseto. Uno dei coordinatori del PDL, Sandro Bondi, ha annunciato le proprie dimissioni. Il premier Berlusconi ha dichiarato: abbiamo perso, è evidente, ma teniamo i nervi saldi e andiamo avanti. Il premier ha parlato dalla Romania, dove si trovava per un vertice intergovernativo. Sentiamo Berlusconi sui rapporti tra i due paesi. L'interscambio commerciale con la Romania è molto elevato, oltre 10 miliardi di euro. Sono 16.000 le aziende italiane che lavorano in Romania, con più di 800.000 lavoratori. Abbiamo avuto in passato alcuni problemi per la presenza di cittadini rumeni in Italia. Sono problemi assolutamente superati. In Italia vivono e lavorano oltre 1.200.000 cittadini rumeni. Sono assolutamente apprezzati e considerati. Si sviluppa anche un'intensa collaborazione per quanto riguarda l'intervento di aziende italiane nelle infrastrutture, nelle grandi opere in Romania, e intendiamo dare sviluppo anche allo scambio di turisti dall'uno all'altro paese. Chiusura in lieve calo ieri per le borse europee, chiusa quella di Londra per festività, Parigi ha perso lo 0,21%, Francoforte ha ceduto lo 0,04%, a Milano il FTSE MIB ha perso lo 0,19%, il FTSE All Share lo 0,13%. Sono state vendute le azioni delle banche, risentendo dei timori per la delicata situazione finanziaria della Grecia. Si sono invece messe in evidenza le Enel Green Power, più 4,7%, approfittando dell'interesse per le energie rinnovabili dopo lo stop della Germania al nucleare entro il 2022. Decisione che per contro ha pesato sull'andamento delle azioni della controllante Enel, rimaste al palo. Sono invece state acquistate le azioni di Fiat S.p.A., più 1,3%, ancora sull'onda dell'annuncio che il Lingotto ha manifestato la volontà di esercitare l'opzione per l'acquisto della partecipazione, pari al 6%, detenuta in Chrysler dal tesoro americano, incrementando così la quota dall'attuale 46% al 52%. Sotto i riflettori infine le Telecom Italia Media, più 7,5%, sulle ipotesi che sia ceduta la TV La 7. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Andiamo in Francia adesso, dove a due settimane dall'arresto di Strauss-Kahn un nuovo scandalo fa saltare una poltrona. È il vice ministro alla funzione pubblica del presidente Nicolas Sarkozy ad essere accusato da due donne di aggressione sessuale. Georges Tron, dopo quasi quattro giorni di critiche e appelli, lascia il governo, respingendo però tutte le accuse. 53 anni, padre di tre figli, l'uomo avrebbe molestato, secondo l'accusa, due dipendenti comunali per arrivare alle minacce e infine alla violenza fisica. Poi le avrebbe licenziate. Le dimissioni di Tron arrivano su pressione di Sarkozy, che ha invitato il vice ministro a lasciare per evitare che monti uno scandalo sessuale a destra. Tron è il sesto ministro costretto alle dimissioni in neanche un anno, ma per reati diversi. Si va dai 12.000 euro di sigari a carico del contribuente di Christian Blanc alle vacanze in Tunisia, mentre è in corso la rivolta di Michel Alliot-Marie. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sul fronte immigrazione, nuove tensioni intanto fra Italia e Malta. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni l'accusa di essersi lavata le mani ancora una volta davanti a una nuova possibile tragedia e chiede un intervento europeo. La dura reazione dopo che sabato notte è toccato all'Italia intervenire per salvare 209 immigrati su un barcone alla deriva. E proprio a Malta si è registrata una svolta. Al referendum sul divorzio hanno vinto i sì. Cade anche l'ultimo avamposto del divorzio illegale in Europa. Il piccolo arcipelago di Malta ha detto sì al termine di un'aspra campagna elettorale che è stata disputata giocando persino sulle paure più profonde dell'elettorato. I sostenitori del no al divorzio sono addirittura ricorsi a maxi poster con le facce dei bambini abbandonati dai genitori per difenderne la messa al bando. Per la piccola nazione mediterranea, dove la Chiesa Cattolica esercita tuttora una forte influenza, non solo religiosa ma anche politica, si tratta di una vera rivoluzione. L'isola era rimasto l'unico paese al mondo, insieme alle Filippine e proprio al Vaticano, a considerare illegale divorziare. Il risultato ha prodotto uno shock all'interno dello stesso partito nazionalista al potere. È stato proprio un suo deputato, Jeffrey Policino Orlando, a sfidare l'ala ultraconservatrice dello schieramento, lanciando l'idea del referendum consultivo. Dopo il risultato ha commentato: il voto traghetta Malta in una nuova era nella quale Stato e Chiesa saranno separati. Il premier Lawrence Gozzi, personalmente contrario al divorzio, ha dovuto fare buon viso a Cattivo Gioco, chiedendo al Parlamento di rispettare la volontà degli elettori, traducendo il risultato del referendum in legge. Curiosamente resiste però un baluardo iperconservatore all'interno dell'arcipelago. Nella seconda isola, Gozzo, i no al divorzio hanno infatti registrato quota 70%. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Grazie per l'ascolto e un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.